Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Ormai da oltre un anno questa trasmissione vi fa compagnia ogni giorno. Ricordo subito la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Mi raccomando, casi che non coinvolgano soltanto chi scrive, perché di quelli non mi interesso, ma che coinvolgano una platea quanto più ampia possibile di persone. Ricordo anche il mio indirizzo sull'home page del Sole 24 Ore. Potete scrivermi, mi farà piacere, potete leggere quello che io scrivo, e scrivo di temi di legalità e sicurezza, che sono poi i temi che affronto in questa radio. robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Oggi parliamo della nostra bella Italia e parliamo della nostra bella, bellissima Sardegna, soggetta spesso, come il resto del territorio nazionale, a veri e propri saccheggi ad opera di vandali, di persone che non hanno né una coscienza civile né una coscienza sociale. Parlo segnatamente dei tombaroli, che in Sardegna decimano praticamente e saccheggiano queste bellissime fortezze che sono i nuraghi, appunto, in Sardegna. E oggi parliamo di un nuraghe in particolare, quello di Sucasteddu, che si trova tra i comuni di Decimo Puzzu e Vallermosa in provincia di Cagliari. E perché ne parliamo? Perché è uno dei più belli insediamenti della Sardegna del sud, di inestimabile valore storico, e addirittura, pensate, i tombaroli si sono organizzati in maniera tale da metterci proprio le impalcature per saccheggiarli. È veramente una cosa indegna. Ringraziando Dio, i sindaci da alcuni anni, e sembra che si sia giungendo a conclusione, stanno rafforzando i propri sforzi per, insieme alla sovrintendenza dei beni archeologici, per arrivare ad una soluzione. Ho il piacere dunque di avere collegato con noi il sindaco di Vallermosa, uno dei due comuni coinvolti, Sergio Catta. Buongiorno Catta. Buongiorno. Allora, ho detto bene, ho detto male, ho esagerato, ho parlato male, bene della Sardegna? Mi dica lei. Ma forse ha detto poco. Allora, aggiunga lei il resto, Catta. La situazione è veramente un punto drammatico. Abbiamo un posto meraviglioso che purtroppo per la burocrazia non possiamo salvaguardare nel modo dovuto. Ecco, però poi, adesso c'è un finanziamento, no? Mi pare di ricordare. Sì, abbiamo un finanziamento che è fermo un anno. Purtroppo succede che i proprietari dell'area dove insiste il nuraghe sono di Fonni, un paese del centro Sardegna, che hanno ricevuto questa proprietà per successione non regolarizzata. Quindi quando siamo andati in catasto a trovare gli effettivi proprietari, ci troviamo di fronte a, non dico poco, ma un centinaio di persone interessate. Ecco, questa qui è una situazione veramente, secondo me, incredibile, perché incredibile. Non si può lasciare in questa situazione un bene come quello del nuraghe, di cui stiamo parlando, ma in generale in Italia. Ho il piacere di avere collegato con noi anche il sindaco di Decimo Puzzu, che, come dicevo, è l'altro comune coinvolto e interessato dalla tutela di questo bene, che è Gianfranco Sabiucciu. Buongiorno Sabiucciu. Buongiorno. Allora, 100 proprietari coinvolti, due comuni, e come se ne esce da questa situazione? Speriamo di uscirne bene. Noi stiamo lavorando in stretta collaborazione con il collega dell'altro comune. Crediamo fortemente che questo sito nuragico è importante, è ritenuto tra i più grandi della provincia di Cagliari. Abbiamo coinvolto in questa iniziativa di vigilanza anche tutte le associazioni che abbiamo nei nostri due comuni e che hanno attività che possono avvicinarsi moltissimo a un interesse di protezione, di valorizzazione di questo importante sito archeologico. Pertanto noi vediamo bene, siamo anche soddisfatti di questo primo accordo, abbiamo da spendere subito delle risorse. Quanto avete da spendere, abbiamo sindaco? Abbiamo subito 50.000 euro a testa, quindi 100.000 euro, vecchie 200 milioni, che tenga presente che molti altri siti nuraggi sono stati sistemati proprio con cifre del genere. Anche ecco, quindi i fondi potrebbero anche essere sufficienti, lo chiedo anche... Sufficienti per ecco, iniziare. Ecco, lo chiedo anche a Cattap, sono sufficienti per iniziare, con, sindaco? Con l'altro sono sufficienti. Benissimo. Il problema è che non li possiamo spendere. Ecco, allora, a questo punto noi abbiamo capito una delle tante situazioni drammatiche, paradossali, kafkiane del nostro paese. C'è un bene da tutelare, ci sono i soldi che possono essere spesi per salvaguardarlo, ci sono due comunità che sono d'accordo, che sono quelle di Vallermosa e quello di Decimo Puzzu, parliamo di due splendidi paesi in provincia di Cagliari, c'è però un sito archeologico che insiste in una proprietà che ha più proprietari. Allora io chiedo a Maurizia Canepa della Sovrintendenza dei Beni Archeologici di Cagliari, alla quale intanto do il buongiorno. Buongiorno. Ecco, Canepa, buongiorno, qual è... anche ai signori sindaci. Ecco, qual è il ruolo della Sovrintendenza in questo accordo che si sta cercando tra i due comuni? Allora, innanzitutto premetto che già dal 2005 l'allora sindaco Contu aveva appunto comunicato ufficialmente che il comune intendeva acquisire le aree di proprietà appunto di Vallermosa e d'intesa con Decimo Puzzu dovevano procedere alla valorizzazione e alla tutela. Noi abbiamo lavorato con i tecnici per individuare le aree e per definire in qualche modo la possibilità di creare un parco. Siamo al 2005, per un pochino abbiamo lavorato, almeno sino al 2006, quegli anni lì, poi dopo la cosa è andata avanti anche in altro modo, attraverso un accordo di programma che i due sindaci, cioè anzi un protocollo d'intesa, meglio dire, tra i due comuni per promuovere, predisporre e realizzare la valorizzazione di questo importantissimo monumento. Ecco, dottoressa Canepa, però le chiedo, dal 2005 ecco, siamo al 2008, aspetti, nel 2007, sì, ma intanto loro hanno continuato per le parti delle ricerche e in ogni caso abbiamo adesso la definizione delle aree e appunto con i tecnici incaricati dai due sindaci si è arrivati alla delimitazione, intesa con noi, col soprintendente, certo, della delimitazione delle aree, perché poi noi dobbiamo dire che l'abbiamo inserito in un quadro più ampio di parchi e aree archeologiche come censimento del Ministero. Canepa, volevo chiedere questo qui, proprio perché è un sito importantissimo. Se non ho capito male, voi avete delimitato l'area di questo parco, che è però all'interno di una proprietà privata. È come se il mio appartamento nel centro di Cagliari, non ne ho ma lo sto dicendo soltanto per fare l'esempio, fosse da voi protetto all'interno del quartiere di Cagliari nel quale sorge il mio appartamento. Le chiedo, ma qual è la mia responsabilità come proprietario e quindi qual è la responsabilità di questi centinaia di proprietari di quest'area in cui esiste e sorge il vostro parco archeologico? Hanno anche loro, come dire, una responsabilità nel tutelare quel nuraghe oppure possono lasciare che accada quello che accade? Non possono distruggerlo e loro comunque come cittadini hanno sempre l'obbligo, se hanno vedono qualcosa di irregolare e illegale, che sono gli scavi clandestini, come cittadini hanno comunque il dovere anche morale e civile di segnalarle, civico anzi, ecco, benissimo, di segnalarlo, però non c'è in realtà un vincolo ecco, di tutela imposto, ma è un monumento fuori terra ed è già un monumento di cui ha la tutela del codice urbano. Benissimo, io vorrei tornare però dai due sindaci con due domande, con una domanda uguale per entrambi. Allora, si dice sempre che la colpa di quello che accade in Italia è colpa dello Stato, no? Come se fosse qualcosa di superiore, non fosse invece il singolo comportamento di ciascuno di noi. Allora, fuori dai denti, sindaco Sabiuccio e sindaco Catta, ma tra i tombaroli ci saranno anche degli abitanti dei vostri due comuni. Ed allora voi come sensibilizzate la vostra popolazione a cercare di salvaguardare questi beni fondamentali? Sabiuccio. Fatto stesso che stiamo riservando delle cifre, visto i tempi, insomma, in cui tutto è in forte riduzione proprio per disponibilità economica. Il fatto che sia i due comuni hanno riservato 50.000 euro dal proprio bilancio è già un passo in avanti. Catta! Non le dico che sono scoraggiato, non le nego che non vedo tempi brevi, sicuramente. Di questo io ne sono convinto, perché i proprietari con la legge sull'esproprio con l'esproprio non mi dicono a parole di farmi entrare, poi di fatto non autorizzano. E insomma, il sindaco Catta torna nuovamente a battere il tasto dolente della burocrazia e delle mille leggi assurde che in Italia regolano tutto e riescono anche a distruggere, a volte inconsapevolmente, dei beni come quelli che noi abbiamo in Italia, e ne abbiamo parlato di uno in Sardegna. Grazie ai nostri ospiti, due sindaci e la dottoressa Canepa della Sovrintendenza dei Beni Archeologici di Cagliari. Grazie in regia Carmelo Lauricella, in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.